Buongiorno, oggi passo la parola a delle voci diverse dalla mia, finalmente, perché sanno raccontare in un modo incredibile la bellezza di quello che per loro stesse è il progetto delle persone libro. E vorrei dare appunto semplicemente a loro la parola, ascoltando anch'io attentamente quello che dicono, perché è proprio nel modo in cui gli altri vivono questo progetto che si nasconde la sua ricchezza e si esprime anche la sua idea di futuro. Grazie. Si impara una pagina, mezza pagina, anche 6 righe sono sufficienti se hanno un significato profondo. È importante che il brano che impari ti piaccia e così tu sei quel libro, sei quel brano e non diventa più una cosa di memoria e basta. Tu vivi la storia che dici. Macondo era allora un villaggio di 20 case, di fango e canna selvatica. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per segnalarle dovevi indicarle con il dito. Imparare a memoria un testo, decidere di donarlo, con tutta l'emozione, la paura, il tremolio della voce, è proprio questo, è ristabilire finalmente una relazione. Io ti parlo, io ti dono un brano, ti guardo, ti sto donando una storia ed è solo per te. E nel momento in cui i tuoi occhi incontrano i miei e mi ascolti, ecco che io esisto e tu esisti. Riscoprire e riconquistarsi un tempo che è fatto di ascolto, che è fatto di memoria e soprattutto di testimonianza. Noi andiamo in giro da un luogo all'altro per dire non recitare, a memoria, a voce alta, guardando negli occhi le persone che ci ascoltano. Diciamo i libri che abbiamo cercato nella vita o che ci sono capitati. Prendiamo in prestito le parole dai libri e le trasformiamo in dono tramite la condivisione. Non è uno spettacolo quando diciamo i nostri testi, non ci sono applausi, non siamo attori. È una relazione sociale, la creazione di un legame fondato sull'ascolto. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha resi cinici. L'avidità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci servono bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. È tutto perduto. Trasmetteremo i libri ai nostri figli oralmente e lasceremo il compito ai nostri figli di fare altrettanto con i loro discendenti. Io sono l'eleganza del riccio di Muriel Barbery. Io sono ogni cosa illuminata di Jonathan Safran Foer. Io sono Immaginatevi di Frederick Brown. Io sono l'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera. Se tu trovi un pezzo che è abbastanza lungo, però lo vuoi imparare, ci metti un bel po', però dopo la soddisfazione che lo doni a qualcuno è praticamente come donare una parte di te. È bello. Mi sono la Gigia, di Romano Pascotto. Io sono il vento di Marco Lodoli. Io sono a un poeta minore dell'antologia di Jorge Luis Borges. Mi piace quando le persone mi raccontano le storie. Questa cosa di sentirmi raccontare delle storie, dei sentimenti, mi ha affascinato tantissimo, ho voluto partecipare per questo. Lei e l'ordine delle parole. Prologo al cominciamento di un molto rigido viaggio. Il mio nome per la legge è Alexander Pierchov, ma tutti i miei amici mi chiamano Alex, perché è una versione del nome più flaccida da pronunciare. Il gruppo delle persone libro è libertà di dire le cose quando si vuole, come si vuole, se si vuole. Nessuno deve decidere che cosa vogliamo leggere. Noi regaliamo parole. Pierre, Paola, Valeria, Adriana. Le persone libro del Veneto orientale e la famiglia libro.